iniziare a spostare la schiena dal muro, mettere la testa in avanti, quindi ritrovarmi così. E piano piano, secondo i piedi, scendiamo. Respiro profondo, inspirare dal naso molto e buttare tutto di colpo, in modo tale che rimanga una sorta di come si chiama, di annasco, no? Che vi costringe ad aprire, e piano piano vi trovate la calma. Inspirate quando salite, respirate in discesa. Piano piano e spostate verso su. Se lavate visto dai punti in terra, aggiungete anche il punto di giù. Qualsiasi suono che sentite per lavorare e connettere a quanta sensazione sia esterna che interna. Adesso, così come siamo, ci incontriamo con l'altra persona, con un molla alla pallina e si lavora schiena contro schiena. Prendete prima il punto più critico dell'altro. Qual è il punto più critico? Il dorsale. Straccia. Così. Una sale e l'altra si afferma. Una massaggio. uno tutta la schiena. Usiamo la sul davanti per massaggiare tutta la zona degli organi, no? Vanno stimolati. Quindi facciamo delicato, non troppo, in modo che facciamo sentire la nostra presenza agli organi che sono i nostri cervelli periferici. Come faccio? C'ho l'addominale a palla, come faccio? Non so. Rilassa. Rilassa e lavora, che anche attraverso l'addominale si sente. Cacciare. Però sei stringente, sei anche no, bene. No. È tuo. E allora lavoraci, non importa. Anche dietro, sui reni. Delicati sui reni. Sono impressionante. Come le spalle leggermente più chiuse è piedi dritti, paralleli. Io sulle punte. Tu sei in realtà così già sulle punte, no? Sto così. Stai qui. Però tenta di. Ma è meglio che lo tolga. Se per te non disturba. No. Sarebbe meglio toglierlo, dico, se non ti disturba di continuare la sua. Grazie. Andiamo sulle punte dei piedi e stacchiamo il tallone da terra. Quindi si piega le ginocchia. La prima posizione che abbiamo fatto alla spiaggia. Quindi questo. Facciamo un arco dove le braccia non si piegano ma fanno curva. Praticamente prendiamo la direzione del cuore, ce la mettiamo davanti e la connettiamo come un triangolo tra il centro e il cuore, no? Sulle punte dei piedi col tallone staccato, ginocchia piegate, se si trema restate, occhi chiusi, si respira in questa posizione. Una posizione di forza, non di rilassamento. Se vi staccate, ritornate. Io per esempio oggi sono molto attesa, comunque no, a tremare moltissimo. Ha ha ha. Cominciamo a viaggiare mentalmente sulla colonna, facendo fare piccolissimi cerchi alla coda, con le gambe leggermente morbide ovviamente. Ginocchio morbide. Ok, la stessa cosa. La facciamo, come facciamo? Anche quella là. E muoviamo. Piccolo, piccolo, piccolo. percepire ma quasi non vedere. Facciamo per esempio comunicare, tipo faccio due cerchi con la pianta e allora il coach ci risponde con tre. Per esempio, trovate un gioco di numeri, tra coach e gioco, numeri di cerchi tra coach e gioco. Adesso ampliamo il cerchio del coach. Il cerchio del coach che si amplia mette in moto il bacino. Però è il coach che cerca di dare l'impulso. L'atlante dà un impulso in avanti, tutto il resto del corpo sta assolutamente fermo, è solo l'atlante per là. Spostando tutto il corpo del seguito. Poi torniamo indietro con la ruota che ci porta indietro. proprio mantenermi sul posto, cioè facciamo in modo che i piedi aggrappino, no? Quindi io magari riesco così, ok? Voi riuscite a quello che potete, però il piede aggrappa e non vi fa andare in avanti. Ok. Avanti. Puoi tornare in sede. E diretto. È sempre il coach che si muove, puoi tornare in sede da solo. Coach in avanti. Coach in scendi. E mi muovo in sede. E se lo spingo invece, evitando che le gambe aggrappino, che i piedi aggrappino, quindi facendo del punto focale del movimento il coccige. Fatevi trasportare dalla coda. La coda che si chiude. Quindi